sette e un quarto ho preso, ho fatto delle telefonate, lei non mi hanno risposto, ma neanche poi stalinizzi. Mi hanno risposto, erano le 10, c'era sempre questa bassa tensione, perché poi come si è stata mia moglie, me l'ha detto, mi ha detto, ma non riesco a fare, perché ci sono staccato, perché c'è questo problema. E niente, a mezzogiorno hanno risolto tutto quanto, però se ti trova anche una cosa del genere fa danni, eh? Cappa, oh Gabi, io ti devo lasciare, scusa, però è arrivato gente, è arrivato mio fratello, oh, già ci sentiamo magari dopo. Vai tranquillo, fra, non sono problemi, a dopo, anche io stacco e che faccio altro, ok? Ciao Frado. Ehi, hey, ciao, ciao Gabi, al limite vediamo stavolta, grazie per pensare. Sì, già sono in radio. Un attimino, se mi ascoltate, Alberto qua che chiede un controllo, buonasera. Sì, buonasera, avanti. Ciao, buonasera Alberto, io da questa parte, tu Gavino se non ho sentito male. Vi ascoltavo così mentre sistemo la radio, ma approfitto per sapere se sto uscendo bene per verificare il microfono. Ti ho copiato, mi dovresti fare un passaggio un po' più lungo. Non ho copiato il tuo nominativo. Ok, adesso lo facciamo un po' più lungo, il nominativo e anche il nome, cioè Alberto. Dimmi un pochino come mi ascolti e dammi un po' di feedback. Positivo. Allora, il tuo segnale qua nel mio QTH è segnale 695 fisso, la radio è comprensibile ma è un po' cupa. Ok, se hai un secondo giro un trimmer e poi mi rivedi la stessa informazione, se invece stavi chiudendo fa nulla. Vabbè, non è un problema, ti posso aspettare. Ok, un secondo. Ciao Gavino. Avanti, buonasera. Ciao Gavino, buonasera. Ciao Alberto. Ciao, un attimino di stand by per me che ho il microfono aperto, un secondo. Tutto bene, sì. Hai visto, ti ho mandato la foto della ciabatta autocostruita. Sì, l'ho vista. È bella, soprattutto sai com'è fatta, eh? Beh certo, è come attaccare la presa direttamente, cioè la spina direttamente alla presa dell'impianto di casa, è uguale, non cambia niente. Sì, beh certo, e poi fatta bene, fatta a te, se intendi queste cose qua, sì, diciamo, number one per passione, Giulio, tutto positivo, come va? Va bene? Sì, tutto bene, grazie Gabi, alla grande, si tira avanti, d'altronde, cosa ci vuoi fare? Il tempo ce l'ho, la salute grazie a Dio mi sta aiutando, per cui va bene così. Vediamo se Alberto ha finito, avanti Alberto. Eccomi qua, sì, ho finito, ti saluto, niente, ho tirato su un po' il gain, il guadagno di questo microfono, così mi dite se ancora si sente cupo. Ma io ti sento bene, sinceramente ti sento bene, sì, non è, diciamo che gli mancano un po' di toni alti, però va bene, a me, per me va bene così, non c'è problema, magari come la pensi, come ci sei, la pensi come la vino. Che lui magari è anche un po' più lontano come sono io, avanti capito. No, per me lo stesso, la radio è un pochino cupa, però è migliorato da poco fa. Riprendo giusto perché ho ancora un po' di corsa del trimmer, lo tiro su mentre parliamo e poi se non... Ok. È mancato la radio, avanti Giulio. Ok. Sì, è cupa, perché mancano i toni alti, sono toni bassi. Sì, è chiaro, si capisce quello sì, però non ci sono toni alti. Bene, riprova, vai Alberto, vediamo se hai regolato. Così sono a fondo corsa, spero che non inneschi in questo modo, ma lo lascio così, insomma è il meglio che può dare. Forse qualcuno ti fa un po' di sovramodulazione o cerca di entrare, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare. Non lo so, può darsi magari qualche importante. Va bene, Alberto, sì, sei sempre nella zona appunto alta, già mi hai capito, cioè, ci siamo sentiti altre volte noi. Avanti, Gabi. Sì, positivo. No, io la portante sì, ho sentito una manovra, una cosa bassa, non ho sentito una cosa, diciamo, fastidiosa. Sempre. Vabbè, proviamo a vedere se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, buonasera. Buonasera, c'è qualcuno che vuole entrare su 27075, compagnia di Giulio Lollaro, Gavino e Alberto. Avanti, buonasera. Ok, quindi nessuno vuole entrare, allora qualcuno sta dando fastidio. Riprendi Giulio a vedere. Ok, vabbè, ci sarà sempre il solito portantista, ma non ce ne frega niente. Avanti, Alberto. Sì, il fastidio era poco, era giusto per sapere se qualcuno voleva entrare. No, va bene, niente, io più che altro le radio le svito e le richiudo, quindi il piacere di avervi tutti sentito, ma adesso provo a rimontare ciò che stavo smontando. Certo, devo dire che è un piacere questo canale 10, che se si vuole sentire qualcuno c'è quasi la certezza, accendendo, di insomma qualche questione in corso si trova sempre, e diciamo che è anche l'unico canale della zona che è frequentato, quindi la considero una certezza. Io se voglio ascoltare qualcuno vengo qui e di solito uno di voi c'è. Per il resto più che altro ascolto e ogni tanto saluto con piacere. Dai, vieni avanti Giulio. Ok. Sì. Comunque che c'è sempre nella solita zona lì, al 100. Sì, ti parlo sopra, penso alla portante, ma io ti ascolto ancora. Sì, centro, zona Viale Umberto. Comunque, non mi ricordo il tuo QTH, dov'è? Se vuoi ripetermelo così mi rifresco la memoria. Ok, ripunti io, Alberto. Ah, ok, ci siamo sentiti infatti anche in precedenza, con la considerazione che più o meno siamo a vista, perché io, anche se non vedo esattamente la zona dei punti, ho pochissime interferenze geografiche. Infatti qua arrivi con un ottimo segnale, quasi un fondo sala, ma anche Gavino arriva allo stesso modo, ecco, tutti con segnali forti. Avanti Gavino, poi ho due saluti e rimetto le mani sui cacciaviti. Sì Umberto, considera che io muto, diciamo, zona Sorso, non sono a Sassari, io sono vicino a Sorso, o periferia di Sorso. Che radio sto usando, Umberto? Ok, il nome è Alberto, non è che è molto importante, ma giusto per dirlo giusto, sono Alberto e non Umberto. Sto usando un Presidente Lincoln, ma il Lincoln, diciamo il Lincoln 2, quello attuale, dai, quello reingegnerizzato, ecco, non il Lincoln storico. Cambio. Scusami Alberto, scusami, avevo capito Umberto, scusami tanto, non... va bene. No, guarda, il segnale è buono, da me arrivi bene. E magari proprio il tipo di microfono che sto usando, che manca un pochino di acuti, ma tutto sommato non è male. Riprendi Giulio. Ok, sì, no, la radio già è buona, no, non c'è problema, è abbastanza chiara, è un po', sì, è vero, senza acuti, ma comunque va bene ugualmente, non c'è problema, ci sentiamo alla grande, e poi è abbastanza chiara, tra l'altro, la tua radio, per cui non hai problemi, ecco, insomma, di sorta, va bene così, riprendi a me. Sì, tra l'altro questa radio di solito la uso col suo microfono originale, quando ci siamo sentiti altre volte, adesso ne avevo uno a cui ho adattato il connettore, c'era il gusto così di provarlo, perché era uno di quei microfoni abbandonati nelle classiche scatole che non mi ricordo nemmeno di che radio fosse, e ho fatto un paio di tentativi, alla fine ho azzeccato la posizione dei fili andando proprio a casaccio, perché non avevo riferimenti, e vedo che tutto funziona. Beh, colgo questo passaggio per salutarvi entrambi, alla prossima, resterò ancora un po' in ascolto. Grazie per la breve chiacchierata e per i controlli. Avanti Gavino e poi gira tu. Sì. Va bene Alberto, dai, io ti auguro buona serata, grazie per essere entrato, poi se hai qualche controllo da fare ci siamo, noi siamo aperti a tutto. Non ci sono problemi. Avanti Giulio per il saluto Alberto. Ok, ciao Alberto, grazie a te per essere entrato per l'ennesima volta a salutarti, così adesso eravamo un sacco di tempo senza riascoltarci, comunque mi fa piacere tutte le volte che entri di ascoltarti. Ciao, grazie ancora per la chiacchierata, ciao Alberto, alle prossime. Vai Gabi. Sì. No, ora da me arrivava tranquillo, però deve essere anche là sotto questo tipo di modulazione che la radio era buona, solo un po' baritonale, diciamo, come la vogliamo chiamare, baritonale, senza toni alti, però ottima, chiara, bella, pulita, no, senza nessun problema. Insomma, non c'erano inclinazioni di sorta, ecco, va bene così. Avanti, capì. E io sto usando giù il 737 abbinato con l'MC80 adesso. Niente, l'ho provato ieri, mi ha detto che va bene, tutto è positivo, quindi. Tu mi stai arrivando lo stesso, la radio Super 5, segnale 9-10, fighi positivi, e non ci sono problemi, Giulio, riprendi. Ok, sì, diciamo che anche tu hai lo stesso segnale, io te lo do con le barrette a LED, però non lo so quanto possa essere, però visto e considerato che facendo il confronto che i segnali si equivalgono, facendo il confronto con quello a lancetta e il segnale si equivale, per cui va bene così. Sì, io ho il solito baracchino, 2 watt di potenza e niente di più, per cui va bene così, sono contento. Riprendi, Gabri? Sì. Niente. Dai. Dai, sono contento che stai meglio, che va bene. Ciccia, riportate a tirare avanti giù, come si dice, tira la campa. Beh, certo che sì, diversamente cosa posso fare, tirare a campare, eccetera, eccetera. Va bene così, io del resto mi accontento, dopo tanti anni ormai non ho più nessuna intenzione, nemmeno di fare flop, non mi riguardano più, insomma, in poche parole, comunque va bene, però se me lo chiedono, controllo io volentieri, anzi, con tutto il rispetto, lo controllo senza dubbio, e specifico anche con quale apparecchiatura do il controllo, come ho detto poc'anzi, con l'apparecchiatura a LED, per cui il segnale è quello, non posso dire diversamente. Però, come ho già detto, facendo un confronto con quella lancetta, diciamo che il segnale si equivale, per cui ritengo che anche questo, nonostante a verde, sia abbastanza preciso. Vai, Gabi. Beh, sì, sono, anche essendo a LED, sono radio, cioè non stai parlando di una radietta, una radio buona, quindi i riscontri che ti dà sono molto attendibili e non ci sono problemi, magari è un po' mattanosa da usare, perché diciamo anche perché stanno facendo questi baracchini adesso, stanno facendo adesso hanno Meluso, Tomilu, queste cose qua, ma cioè, stanno diventando a carica a tutti gli effetti. Ok, beh, diciamo che in quanto al modo di trasmissione più o meno si assomiglia, non certamente paragonabile, però si assomiglia tanto, perché è così, in effetti è così, man mano che passano gli anni, diciamo che stanno sempre rimodernando e facendoli sempre più vicino possibile appunto a quello che hai detto tu. Vabbè, comunque, va bene lo stesso, non c'è problema. Vai. Beh, già, comunque il presidente Lincoln, quello che stavo usando Alberto, il presidente Lincoln è già un HF da tutti gli effetti, perché gli mancano solo le bande, gli mancano i 40, 80 metri, 160, però è un baracchino a sintonia continua ed è un HF. Sì, beh, certo, questo, come hai detto tu, a tutti gli effetti, quello lì deve essere proprio un HF a tutti gli effetti. E poi, anzi, obiettivamente dobbiamo dire che anche in questa frequenza, anche questa è considerata un HF, però non certamente a tutti gli effetti, già mi hai capito cosa intendo. Beh sì, fa parte da 0 a 30, fa parte dell'HF, quindi sì, è sempre nelle bande HF, non radioamatoriali ma è HF. Certo che sì, è così, in effetti è così, va bene, comunque, rimaniamo tranquilli, pacifici, senza nessun problema. E appunto, vi stavo ascoltando quando stavate parlando delle ciabatte di comprate al negozio Bricoman, che poi non è più Bricoman, adesso è Tecmac, non me lo ricordo come si chiama adesso, hanno cambiato anche nome. Sì, combinazione tiro, io ho preferito autocostruirmela, io ce l'ho così a casa, ho comprato la scatola a frutta così e ci ho inserito le varie prese, quelli originali per gli impianti idraulici, e me la sono autocostruita, per cui va bene così, ce l'ho dappertutto insomma a casa, ecco, fatta di quelle. Sì, ma non sai cos'è giù, perché poi dicono, ma sei troppo diffidente, quello, quell'altro, ma non è diffidenza, è il fatto che quando io compro una ciabatta, no, già col capo, che non so adesso, non mi ricordo quanti metri di filo mettono, che mettono un metro di filo, un metro e mezzo di filo, due metri, e vai ad aprirlo per mettergli una spina a succo, no? Perché magari mi serve una spina a succo, e vedi che al cavo da un e mezzo, o quel cavo da un e mezzo, 4 o 5 ferramenti di rame, finissimo. Alla fine uno si fa due conti, e dice, ma se io qua carico 2 kW, no? Che sarebbe anche eccessivo in una ciabatta buona, ma se io qua carico 2 kW e li lascio 4 ore, cosa succede a sto cavo? Quindi poi uno si lamenta quando dice, ma mi ha preso fuoco la ciabatta, ma è successo quello, è successo quell'altro, mi scatta il contattore, mi va sovraccarico, fatti due conti, perché magari va a comprare una ciabatta dai cinesi, la paghi 3 euro, 5 euro la Bricoman, si dice, no, ma l'ho presa la Bricoman perché l'ho pagata 6 euro, sì, ma se ha la Econ costa 12 euro, no? La stessa dice, ma è uguale, non è uguale, assolutamente, può essere fisico, cioè ha impatto fisico, può essere simile, non uguale, però cambia tutto, perché io non è che, non faccio interessi a nessuno, però mi sono accorto, lavorando sia nella mia professione, che certi materiali che si usano in ambito professionale, per esempio l'abiticino, fa roba come si deve e ti puoi fidare. Certo che sì, un attimo Greco, sì, beh, certamente io materiali buoni li vendo alla Aircon, la vendo la cosa buona, non certamente l'abricome, piccole cose può anche andare, perché no, ma non certamente per caricare 2000 watt, assolutamente no, questo è fuori dubbio. Tu pensa che io ho un nipote che abita lì nelle vicinanze di Sorso, proprio all'ingresso prima, un po' prima di arrivare a Sorso, dopo il rifornitore che c'è lì su quella zona lì, e gli si è incendiata la casa proprio per effetto di una ciabatta che aveva installato così, quelle comprate tipo Bricome, ha distrutto completamente la casa, perché loro non c'erano a casa, è proprio completamente distrutta, anche il tetto gli ha distrutto l'incendio, ti puoi immaginare, come fai a fidarti? Ci vogliono apparecchiature come si deve per poter essere più tranquilli. C'è stato un break poc'anzi in sottomodulazione, avanti break. Ehi Alai, buonasera a tutti, Gianni Doppio Room in movimento in barra mobile, avanti Giulio, buonasera e buonasera anche a Gavino di nuovo. Ok, ciao Gianni, ben arrivato, vai Gavi. Ciao Gianni, e allora riprese in barra mobile? Ehi, dimmi come va questa capsula. Beh, la capsula è, diciamo che è meglio di quella di ieri, è molto meglio, la voce è più squillante, dove ti trovi adesso Gianni? E adesso sono al chilometro, Gavi, al chilometro. Positivo, segnale 9, radio super 5, Giulio riprende. Sì, più o meno anch'io ti do quel segnale, già va bene, non c'è problema. Infatti poc'anzi ti ho sentito mentre modulava Gavino, ti ho sentito sotto, ma ti ho sentito comunque chiaro. Bene, riprendi ancora già. Sono direzione zona tua Giulio, sono direzione zona tua, dai. Poi già ci sentiremo anche meno. Ho capito, dai. No, non mi potrei dire che stai andando a pescare, no, interrogativo, naturalmente non è una cosa, se non mi puoi dire non me lo dire, ci mancherebbe altro. No, non sto andando a pescare, sono andato a prendere la mia compagna a lavoro. Ah, vabbè, no, quel lì, era solo una curiosità mia, visto che questa strada porta al mare. Tutto lì, o Gianni, niente di più. Avanti, Gabi. Positivo, sì. Gianni, no, la modulazione è molto più accentuata da quella di ieri, molto più accentuata, va abbastanza bene, va abbastanza, anzi, è ottima. Segnale, diciamo, è uguale a quello di ieri, stesse comparazioni, stesse cose, non ci sono problemi, riprendi già. Sono sempre in movimento, adesso sono zona Sant'Orsola Nord. Se passi davanti alla Pizzicotto 2, ordinami una 4 formaggi più patate, grazie. Cava gaba. Va bene. Questo è il microfono, praticamente la capsula che usavo con quell'apparecchio modificato, Giulio. Va bene, già, la radio va bene, non c'è dubbio. Vabbè, il segnale, ma ormai sei vicino a me, per cui hai lo stesso segnale in questo momento di quando mi arrivi da casa, però quando non usi il magno, quando usi il magno no, allora ancora più forte. Vai già. Vabbè, quello lì è un bel apparecchio, là. Ecco. Anzi, ti faccio entrare subito, perché io chiudo fra un po', anzi fra qualche secondo. Avanti, Roberto, buonasera. Sì, buonasera, stavo ascoltando da qualche minuto. Ciao Giulio, ciao Gavino e ciao Gianni. Gianni sta arrivando molto molto bene, considerando che macchina la 920 qua, dalle mie parti. Ok, probabilmente sono molto favorevole per quella zona. Facciamo il giro, Giulio, Gavino e Gianni. Avanti anche tu. Vabbè, ciao Roberto, buonasera anche a te, dai. No, è l'antenna che è buona, Roberto, l'antenna che va benissimo, un'antenna tedesca. Che è 1,60 ma spara di brutto. Tappa, vai Gavi. Ciao Roberto, buonasera e ben sentito come sempre. Gianni, qua la messa è già 9.25, radio, vabbè, hai lo stesso l'oscillazione che del segnale, come se in barra mobile, però qua tutto è positivo. Riprendi Giulio. Ok, sì. Va bene, vabbè, come ti avevo annunciato l'altro giorno, uno di questi giorni che fa bello naturalmente, che non piove, ti porto, mi metti un pochino di quel massice, un resino, cosa è, per incollare quella guarnizione. Va bene, dai. Signori, bene, io vi lascio, dai, devo scendere a cenare, per cui, vabbè, ci sentiamo alle prossime. Grazie per essere entrato comunque in tempo, prima che io chiudessi. Ciao Roberto, ciao Gavino, ciao Gianni, tanti saluti a tutti e grazie per il QSO. Riprendi pure Roberto, ascolta il finalino di tutti e tre e poi chiudo. Vai Roberto. Tappa Giulio, quando vuoi passa allo site, per te non esistono problemi. Ok, ti saluto, ti auguro buon proseguo, buona cena, qualunque cosa devi fare. Vai Gavino e poi Gianni. Sì, ciao Giulio, dai, buona cena, buon tutto, ci sentiamo alle prossime e quando vuoi, quando mi senti. Mi fa piacere che dici. Di nuovo buona serata. Riprendi Gianni, dove sei arrivato, dove sei andato, dove sei arrivato, perché? Sono da Bricco, ma dai, ciao Giulio, buona carica quando la fai, dai, ci sentiamo. Sono da Bricco, ma qua. Positivo, dai, prendimi un metro di cavo a 2,5, un paio di rotoli di cavo a 2,5, già fa cortesia che vi servo. Riprendilo, beh. Oh, questo Bricco me vorrei metà dei soldi che incassano in mezz'ora, perché è una cosa micidiale, quanto lavorano quel posto, è sempre pieno, ma è una volta che tu trovi varie gente senza fare niente, le casse sono sempre intasate, tipo quando la città mercato andava alla grande. Esatto, no, è sempre, perché poi capita, vabbè, che noi abbiamo il capannone lì, no, sotto di dove c'è lo Speedit, capita che di domenica, andando in serata, domenica mattina, andando in serata d'estate, quindi la gente è cambiata andando di lì, ma fare cosa? Perché deve andare al mare? No, così cacchio, d'estate no, lasciamo, a me che vanno a prendersi il fresco, come si faceva certe volte a città mercato, a prenderti un po' di fresco. Sì, ho capito, però non posso andare d'estate, cioè io partendo in serata andando a montare alle 10 del mattino, il tipo con la moglie e figli, l'ho cambiato e andando da Bricomen, ma scherzi a luglio, ma per carità, Gianni riprendi? Dai, io sono qua lì punti adesso, non so come mi stai ascoltando, capito? Roberto, non lo so, sto facendo le prove, Roberto, come va qua? Da quali punti? Tu sei quasi 9 più 20, probabilmente ti stai aiutando perché stai arrivando fortissimo, modulazione bella chiara, a parte l'eco già lo sei, io non l'apprezzo, però il segnale è ottimo e modulazione bella chiara, complimenti. Si può? Sì, un attimino, non mi sto aiutando Robert, sono con l'apparecchio e basta, è l'antenna che è buona, ho comprato un'antenna che non costa ma è buona veramente, avanti che ha detto si può. Ah, facciamo che non mi ascoltavi. Gianni, ecco sono. Ciao Roberto e ciao di nuovo Gavino. Avanti Roberto. Ciao Franco, ben sentito, c'è qualcuno che sta gridando sotto, non so chi sia, lamentandosi, non so se l'avete sentito, vai Gavino per Franco. Ciao Franco, ciao, buonasera, di nuovo buonasera, dico sì, da tu, ma c'è poi il capo, ma che come sono pazzi, comunque va bene, Franco lo occupi bene tu a Gianni, ho visto poco fa con questo discorso che da te magari arrivava con un segnale più basso. Gianni, fa un passaggio per Franco così ti dà una comparsa non sovramodulata. Ehi Fra, guardo a come sta arrivando, dai, sono sempre in macchina, adesso sono nei viutuli campani. Dai, 6, 9, 5, sì, quasi 9, 10. Diciamo che ti ascolto benissimo, ti ascolto. No, poco fa stavo dicendo che se vado con lo scratch magari non l'ascolto, invece lo dovrei ascoltare, l'ascolto lo stesso. Non è quello un problema. Gianni già esce forte dalla macchina. Non so se lui mi ascolta bene, se sono basso o alto. No, benissimo Fra, ti ascolto benissimo. Capo, allora già va bene. Avanti, capito? E lo vedi, ci arriva lo stesso segnale, e anche qua sta arrivando 9.5, 9.10, la radio 5, bella che cioè è chiara, ma Gianni conosciamo che non ha la modulazione corposa, diciamo come posso averla io, però è chiara la radio, in confronto ad altre barre mobili che si sentono, diciamo il top, va bene, 10, riprendi Roberto. Ho l'impressione mia, Gavino, hai abbassato qualcosa tu? No, io sto usando, oggi sto facendo girare l'ICOM, Robert. Cioè, poco fa mi sembra, vabbè, forse mi sbaglio, adesso sei 9.10, però poco fa mi sembra un pochettino di più di 9.10, 9.15, sembravi con i picchi. No, non lo so, guarda un po', ora, vedi un pochino, dipende perché mi sto allontanando dal microfono, mi segui, non voglio mandarlo in saturazione. Non dovrebbe entrarci niente col segnale, però è così, sto usando questa radio qua oggi. Capace che c'è qualcuno che sta dicendo nulla quando stai parlando, avanti che vuole entrare. Cioè questa arriva a 9.15 qua, avanti che vuole entrare. Non credo che sia propagazione, ora la difendi, ora, lamentandosi. Ok, vai Gianni, riprendi tu. È propagazione, Robè, è propagazione, dai, lo sento anch'io. Mi stava comprendendo a vino, infatti ha detto, che strano, proprio come parlava lui ci si metteva a fare ola. Ok, Franco, come ti arrivo di dalle tue parti io? Capo, vabbè, io sono con Gala, che se non è che ti posso dare preciso, te lo posso dare. Tu mi hai, vabbè, qua mi stai arrivando 7 in questa radio, 7, 8, la radio è perfetta, 5, sempre come sempre. Siccome c'è un Gala che si allo smith, effetto allo smith, e non è che te lo posso dare tanto. No, che mi interessa la radio che non abbia imperfezioni, dai, magari visto che sei più lontano degli altri, magari potresti sentire meglio qualche disturbo. Ok, no, tu c'hai 9.10, il rapporto tuo è 9.10, anche qualcosina di più di 9.10. Vai di nuovo, Gabino, riprendi. È positivo, ma è strana questa propagazione, una propagazione che copra così tanto, ma quest'ora, non l'ho sentito tutto il giorno, ma non c'entra niente. Però può darsi che sia anche una propagazione della Sassari, si è aperto qualcuno. avanti Gianni, dove sei arrivato? Sono subito arrivato, dai, sono subito arrivato. Positivo, positivo, qua il tuo segnale è sempre, diciamo, io ti sto copiando 920, 920, radio sempre ti capisco benissimo, non ci sono problemi, e tutto è positivo, hai risolto il problema del microfono e sono contento, adesso è una scheggia, per avanti Roberto. Ma arrivato dove? A casa Gianni? Perché da 9.20 sei sceso a 9.10. E io sono in una strada di campagna, Robè, in mezzo alle case, e con un'antenna da 1,60 m, non ti riguardo. Ah no, pensavo arrivato alla Brico, ma infatti ho detto, boh, ti sei abbassato così tanto. No. Sono in strada di campagna, dai. Adesso mi sono fermato e penso che mi ascolti bene anche Franco, avanti. Scappa che ti ascolto bene, sempre come sempre, sempre nello stesso modo, ti ascolto perfetto. Cioè una bella radio, forte e squillante. Cava, abbiamo cambiato la capsula e anche il PTT, così almeno mi sono il problema. Poteva essere uno o l'altro, per non sbagliare ho cambiato tutti e due. Capo, hai fatto bene. Gianni, non ti sei accorto di niente? Già me ne sono accorto, già che mi stai facendo lo smitter, fra. Già me ne sono accorto, sei in fondo scala qua. Ah, pensavo non te ne eri accorto. Quello guarda tu. Sì, già me ne sono accorto, già me ne sono accorto, io mi accorgo di tutto, però vabbè, non è che sto lì a rilanciare i cambiamenti, me li tengo per me, non è un problema. Avanti Roberto. K, è quella spedizione a che punto è, Gavi? No, non l'ha mandata, non l'ha ancora finito, mi l'ho sentito giusto stamattina che mi ha chiamato e diciamo che ha finito il coso, quella scatola con quella cosa che ti stavo dicendo, dovrebbe, mi ha detto guarda, come spedisco e arriva, mi mandi subito, quindi adesso aspettiamo settimana prossima. Scappa, riprendi Gianni, non l'ho registrato, Gianni riprendi. Sai che è sceso con me? Scappa. Mi sembra che sia Claudio Lamulos, avanti Claudio sei tu, ciao Claudio, ben sentito in compagnia mia, la Sassa naturalmente, poi c'è Gavino, Franco la Sorsa e Gianni, non so dove si è imboscato, comunque una strada rurale almeno per quanto ho capito, facciamo venire avanti prima Gavino, poi Franco per i saluti e poi Gianni, vai Gavino. Ciao Claudio, buonasera, va bene, io per te sono in condizioni un po' brutte, io sotto in mezzo al QRM e niente, fatico a capire quello che dici, ma faccio di tutto per tirarti fuori. Avanti Franco per i saluti a Claudio. Capo, io guarda, lo saluto lo stesso a Claudio, non so se lui mi ascolta, io negativo, non lo sento per niente, neanche mi disegnare, non riesco a tirarlo fuori per niente. Ok, se non mi ha ascoltato, me lo saluti tu, Roberto. Avanti a te, Roberto. Cappa, Claudio, l'hai ascoltato, Franco? Ci sono anch'io. Cappa, allora Franco non ti ascolta e tu non ascolti a lui. Gavino ti tira fuori e tu hai detto lo tiri abbastanza bene. Io ti ascolto benissimo, sei quasi 9.20 come al solito qua arrivi. Benissimo, vediamo Gianni che è molto lontano, se ti ascolta lui è macchina. Avanti Gianni per Muros. Io lo ascolto a livello QRM, non so come mi ascolti lui, ma io lo ascolto a livello... Qualcuno va a portare. Guarda, stanno passando i carri di carnevale già. Cosa? Guarda, stanno passando i carri di carnevale. Perché? A che si intende musica? Fare un carnevale. No, non c'è né musica. E allora il tuo cuore sta battendo forte, cosa vuoi ti dici? Avanti chi vuole entrare, c'è qualcuno che si diverte a mandare portante, vabbè dai, probabilmente non sta uscendo, c'ha qualche difficoltà. Claudio Di Muro, avanti a te, facciamo passaggi brevi così ci ascoltiamo tutti, se qualcuno se ne va via. Vai Claudio. Già Gianni, l'hai ascoltato Claudio? Molto bacio, perché sono in movimento, dai. Non lo so se lui mi ascolta, però l'ascolto di quello qua rete. Vabbè, c'è qualcuno mette portante, dai, nel fondo ti sento comunque Gianni, sei 9:10, però la portante arriva 9:15. No problem, ok, anzi facciamo riprendere a Franco, che è quello in riposo più di tutti. Avanti Franco. Qualcuno sta mettendo la portante a Gianni, si sente come un tamburo. Però fa Gianni, passa la grande anche qua, passa, non è un problema quello. Avanti Davino. Beh sì sì, no vabbè, si mettono a mettere portanti e non hanno anche la possibilità di raggiungere il loro scopo. Comunque va bene così. Robert, ti stavo dicendo, credo che lui domani la chiede dell'aggiornamento del, diciamo, del pacco che sta facendo, che questo è una persona, è un fatto scatenato. Ok, c'è sempre qualcuno che si diverte a dare colpi di portale. Comunque ti ho ascoltato, no problem. Volevo fare una domanda a Muros, Claudio, che radio stai utilizzando tu? Stai attento soprattutto al rosso, con quei tipi di giocattoli, bisogna stare molto attenti, che se si fa del danno sono soldoni, dei bei soldoni. Ok, e Gavino, vabbè, quando arriva la merce fammi vedere, sono molto curioso, mi hai fatto già vedere qualcosa, poi dobbiamo fare il modo di incontrarci per darti quella cosa che ti avevo detto, così l'altro con la mezzo e te la faccio avere, meno male c'è possibilità di divertirti, visto che sei un grande appassionato. Gianni, doppio room a te il mic. Non ho copiato, Roberto, cosa hai detto? Ho detto avanti, doppio rumo. Capo, sono una guida, sono ascolto. Questo è un subwoofer, capime. No, ma comunque è un qualcosa che c'ha Gianni, è un qualcosa che ha Gianni. No, non credo proprio, perché Gianni è 9:05 e questo arriva a 9:15, il picco. Gianni, tra l'altro tu ti sub dalla macchina, è un casino, ti copre la radio, questo è un sub, però non c'ha un bel punch come dico io. Va bene. Riprendi Franco. Ehi, è proprio così. Va bene, dai, non è niente. Va bene, dai, signore, io vi saluto e ce ne ascoltiamo alle prossimine e me la vado a mangiare. E niente, magari a più tardi. Ciao Roberto, ciao Claudio Di Muro, non so se mi ascolta. E ciao a te Gavino, e ciao a Gianni. A più tardi se ci siete, se no alle prossime. Ciao. Ciao Franco, sì ci siamo, dopo cena sono qua in radio, intanto faccio sempre qualcosa, quindi non ci sono problemi, che fa la chiamata, e non c'è, poi se non rispondo tira una pietra, e riprendi Robert per i saluti a Franco. Ciao Franco, ben sentito, come al solito, non proprio, buon tutto, buona cena, io rimando ancora un pochettino, tra l'altro non è che abbia tanta fame, mangerò un pochettino più tardi, avrò più tempo a dedicare qua, su questo canale, facciamo riprendere a Gianni, doppio rumo, avanti se ci ascolti per i saluti a Franco e poi Claudio da Muros. Ehi, ciao Franco, ben sentito, ci sentiamo, dai, alle prossime. Avanti di nuovo Gabino. Sì, vai Claudio di Muros per i saluti a Franco. Io mi assento due minuti perché devo aprire il cancello, dai. Mi prendi Claudio di Muros, se mi copri, o altrimenti roba fammi la fonte per i saluti a Gianni. Franco di Sorso, quel di Sorso. Attenzione che l'ha ruggito, mi ascolti Gambio? Cava, dai. Riprendi Roberto, riprendi, dai, che io sto guidando, non si sa mai che ci siano posti di blocco. 9:20 già nel tuo rapporto, radio buona, ottima per la tuba, come dice un amico. Io sto arrivando il più piccolino di tutti, come al solito, Claudio. Segnale è quasi 9:20, da 9:15 con i picchi arrivi quasi 9:20. No, ma non è che sia dell'Oman invece questo personaggio che sta dicendo tu. Collegato con il nominativo Alessio Amemura, ne ha fatto diversi per l'Arabia Saudita. L'altro giorno ho fatto il Brasile, e sempre qua in 11 metri, bellissimi segnali, ottimi. Infatti mi sono rimasto a, come cavolo era quello, quella località famosissima di mare, a Fannapoli, non mi viene il nome adesso, di questo brasiliano, arrivavo fortissimo. Come ho chiamato, mi ha laterale, ha risposto immediatamente, poi vabbè, gli altri, Qatar, no, ho fatto benissimo, mi sto meravigliando perché in 11 metri non li avevo mai fatti quei collegamenti a coso, Bahia era la località di coso, del Brasile, arrivava fortissimo, poi c'erano gli americani 9:30, 9:35, stavano arrivati poco fa, canale 11 c'erano segnali 9:25, infatti ho detto, boh, chi sono questi? Ed erano propagazione. C'era una propagazione con il discorso delle macchie solari che sono attive in quest'anno, ma micidiale, fa dei collegamenti a lunghissima distanza, c'è anche fatto l'Australia, vabbè, l'ho fatto in maniera radiomatoriali, che è molto molto difficile farlo, soprattutto con le condizioni di antenne che ho io, però con la Colweb, un'antenna un pochettino più performante, ho fatto l'Australia, con la Mantova mi diverto tantissimo, e poi qua soprattutto in 11 metri sto notando cose che prima non mi immaginavo, le sto facendo in modo assolutamente regolare, vabbè, probabilmente c'è meno disturbo, con le bande un pochettino più alte, in banda laterale senti meglio, meno disturbi e con è una maggiore resa. Vediamo se è rientrato Gavino, lo facciamo venire avanti, avanti Gavino. Sì, sono rientrato Roberto. Sì Robe, dai, magari in questi giorni, ci vediamo. Non c'è problema, no vabbè, ma ci vediamo per un caffè, no, non portare, non ti preoccupare, poi quelle cose le vediamo più avanti, non ti preoccupare. Gianni, dove ti trovi? A Sant'Orsola sono, Gavì, Sant'Orsola, sto rientrando, vai. Positivo, positivo. Sì, ti ascolto sempre bene. Riprendi Roberto. No, Gianni è micidiale, se sei a Sant'Orsola è quasi 9:20, un segnale locale, diciamo, con l'antenna fissa, sta arrivando una bomba, fortissima, bella modulazione e basta. Vediamo se ti ha ascoltato, penso di sì, Claudio Lamuro, avanti Claudio. Organizzati anche tu, visto che adesso c'è le possibilità, poi ti ho detto, con la quattro elementi, se ti vuoi divertire, ci mettiamo d'accordo e vai ai lavori, te ne vai un pochettino più su, ti prendi questi nominativi, ti iscrivi col cluster di ex degli 11 metri e ti diverti tantissimo. È come che stiamo parlando come un programmatore, ti danno il nominativo, l'ho fatto anche io, ed è veramente divertente, ti posso garantire, fai dei bellissimi collegamenti, poi una volta che c'hai l'operatività di antenne più performanti vedrai che diventerai il numero uno tu, mi sono sicuro, perché c'è tanta passione come la povera Claudio, e si va alla grande. Di nuovo riprendi, Gabriele? Sì, però vediamo, sì, dimmi, adesso. Sì, già mi piacerebbe intraprendere questa attività. Ma poi è divertente perché ti danno un nominativo internazionale, unico, univoco, nel senso tu come chiami, con l'165 sanno che stiamo chiamando dall'Italia, la Sardegna in particolare, poi c'è il suffisso e altri numeri, e ti identificano subito, perché se tu sei iscritto, vabbè, non è detto che ti devi iscrivere, sanno direttamente, ti mandano in diretta le QSL, come possono fare in maniera rematoriale, con nominativo, tac, e ti arriva, sono bellissime cose. Prima era un po' più complicato perché doveva andare per posta, chissà se ti arrivavano, molti volevano i soldi eccetera, così invece non spendi neanche una lira, ti iscrivi, tac, e li mandi subito immediatamente la QSL, bellissimo. Tra l'altro fai collegamenti che da parte mia erano impensabili, neanche mi immaginavo, poi invece ho fatto collegamenti a lunghissima distanza, ti ripeto, tutti i giorni, non è dire aspettando l'estate quando c'è caldo, magari il sole, le condizioni di calore fanno mandare lunghissime distanze, qua stiamo parlando d'inverno, condizioni non troppo ideali, naturalmente c'era il discorso delle macchie solari che sono ogni 11 anni circa, quest'anno siamo nel periodo migliore, speriamo che continuino, così possiamo fare dei collegamenti più importanti. Vi facciamo riprendere la doppio room, vediamo dove è arrivato, vai Gianni. Io sto uscendo dalle luci gialle, dai, sto andando verso casa, sono quasi arrivato a Domo. Ok, riprendi Muros. Allora, la cosa strana di questo qua, io sono iscritto, però poi non mi riconosce una password, mi diverto guardando e basta, mi sono iscritto in un altro cluster, di un altro, non quello che mi hai dato tu, che va bene lo stesso, più o meno la stessa cosa, però mi meraviglio con quello lì, perché è tutto regolare, non me lo riconosce, addirittura ho messo anche il nominativo radioamatoriale, non mi dice vai a riprendere e non mi riconosce, infatti un giorno se capita, vai, mi avvicino a te, vediamo un pochettino, tu che sei più pratico. Ok, riprendi Claudio che farei girare subito alla via. Mi ha dato il link, facciamo una cosa, quando capito magari mi faccio dare le informazioni più dettagliate da coso, anzi se me le manda via WhatsApp, che tanto c'è il mio numero, Claudio Di Muros, e poi te le rigiro a te. Poi non so se hai notato, su Messenger ti ho mandato una modifica da attuare sulle antenne, le logaritme, quelle che stavamo parlando l'altro giorno, non so se le hai dato un'occhiata, e poi ti devo mandare un'altra cosa e la manderò anche a Claudio Di Muros, che mi ha mandato un carissimo amico, radioamatore, dove ci sono tutti i segnali registrati, sia in modo audio che in modo waterfall, cioè di banda di cascata, come vedi la modulazione, ci sono migliaia di segnali su tutte le bande, di tutto quello possibile e immaginabile. Te lo mando Gavi e te lo manderò anche a Claudio, è una cosa veramente bella e interessante. Magari noi molte volte sentiamo dei disturbi e sono dei sistemi digitali, di codifiche digitali eccetera, ce ne sono migliaia per tutto le mani, ci si zippate dal famoso picchio, quello di Chernobyl, che negli anni della guerra fredda utilizzava la Russia, sino ad arrivare ai radar, radar di avvicinamento, cosa, sistemi di lancio di missili, eccetera eccetera, c'è di tutto e di più. La cosa veramente, chi l'ha fatto è omicidiale, c'è un lavoro di anni e anni, mi pare 30 anni di lavoro ci sono stati per registrare tutti questi nomi, cioè questi segnali, ci sono le number station, c'è un po' di tutto, segnali tetra, segnali di sottomarini codificati, di tutte le bande, dai 20, come si chiama, 20 kHz, sino ad arrivare alle bande satellitari, diciamo altissime frequenze, le microonde. Riprendi Claudio e poi farei girare di nuovo a Gavino. No, un attimino, dai, io sono arrivato, ripeto, da casa. Ciao a tutti, per il momento poi ripeto da casa. Ciao. Ciao Gianni, comunque ti hanno soprammodulato, ti saluto e ti farò salutare anche la Gabino dopo. Ci sei ancora Gianni, ti rilancio, avanti, forse è già sceso la macchina perché ha detto che stava arrivando a casa. Gavi, ti ho mandato quella roba, adesso la mando anche a Coso, a Claudio Lamuros, e voi che siete appassionati, è una cosa veramente molto ma molto interessante, guardatevelo con calma, c'è di tutto e di più, perché ci sono delle formazioni di tante cose, veramente complete. Sì, grazie Roberto, adesso lo guardo, me lo guardo proprio bene questa roba qua, e vediamo un po' di metterla in atto. E ti ripeto, me la sto facendo, è quarantena, me la sto facendo piano piano e devo allungare i pezzi perché le stanno costruendo più corte. Gavi, guarda, non so se l'hai guardato Messenger, ti ho mandato qualcosa. E come Robè? Vai su Messenger, ti ho mandato mercoledì un messaggio dove c'è proprio riguardo alle antenne fatte da voi, si chiama OMCB, utilizzando, modificando una logo periodica, una che può funzionare per le bande anche diciamo radioamatoriali, utilizzando, modificando dalle dimensioni. Guarda un po', è molto molto esaustita, nel senso abbastanza chiaro. Sì, lo sto guardando da lì, l'ho preso da lì, sto prendendo da lì le misure, robe. Ah, quindi l'hai visto il coso, quello che ti ho mandato? Certo, perché ti risulta che non l'ho letto? Mi risulta che non l'hai letto, quindi quello l'hai visto subito quando te l'ho mandato. Certo, sì, sto prendendo da lì le misure di questa antenna. E poi ti ho mandato su WhatsApp quello che ti ho detto, che è veramente una cosa interessantissima, per me è pane e salame, perché c'è di tutto e di più. Poi quando capita ti faccio vedere altre cose e ti do anche altre informazioni, quello è un po' più complicato da utilizzare il sistema, bisogna conoscerlo. Se ti interessano, parliamo di radio broadcasting, dalle radio AM, Radio FM, DAB, TV, eccetera, eccetera, di lì ci sono tutte le informazioni possibili e immaginabili di qualunque stazione attiva nel mondo. Tu scrivi per dire Sassari, postazione Monteoro, ci sono tutte le frequenze con le potenze, il guadagno delle antenne, elevazione dell'antenna, eccetera, eccetera. Ci sono anche diagrammi di accettazione di radiazione, di copertura, veramente una cosa veramente bella. Per chi è appassionato come me è veramente bello. Penso che anche a voi possa interessare, quando capiterà vi farò vedere, però quello vuole visto di persona, non è mandare così perché poi non lo sai usare, ci sta mezz'ora per capire la logica di funzionamento, perché ho mandato a uno e non è riuscito a usarlo. Io lo faccio col cellulare quando non ho niente da fare, molte inutili, che non riesco a prendere soldo, mi diverto di lì e commuti e ti vedi tutte le informazioni per vedere, adesso vediamo che ora hanno modificato delle cose, sono entrate le stazioni DAB che prima erano la copertura di Sassari, arrivava via Monte Alvaro, adesso arriva da Monte Oro. Se avete notato i segnali si sono di gran lunga migliorato la copertura e l'intensità. Muro su a te. Gabino, si è allontanato, ci sei Gabino? Oh, che Claudio, dimmi velocissimamente così non ti trattengo, come funzionava il discorso di iscriverti a Whisky Mike? Speriamo che si sia risolto il problema. Gabino mi ha mandato un messaggio, non rispondeva perché è mancata la luce, penso che abbia risolto. E dopodiché senti, mi mandi il link così poi glielo giro a Gabino, che non me lo ricordo a memoria, io l'ho fatto, io sono 165, Whisky Mike 105, tu eri 102 mi pare. Thank you. facciamo riprendere a Gavi, no, che aveva fatto un passaggio troppo lungo. Ci sei Gavi? Mi sa che non è ancora rientrata la luce da Gavi. Vabbè dai, ok dai, perché visto che Gavi è molto appassionato, sta facendo una bellissima stazione, eccetera eccetera, e per cui dobbiamo cercare di dargli la possibilità, se abbiamo delle informazioni, di farlo partecipare, che è veramente una cosa molto interessante. Dai, mi sono trovato bene anche io. Ok, ti saluto di nuovo Claudio, saluto a tutti in casa, buona cena, buon tutto, e avremo modo di sentirci, spero quanto prima. Ciao ciao. Vediamo Gabbino, canale 10, avanti, se ci sei, se hai sistemato la situazione difficoltosa. Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione 10.